e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E ne ricomincia un'altra. Dai, perché ce la facciamo anche questa. Buona settimana a tutti. Esatto, ormai. Buon lunedì. Guarda che da mercoledì in avanti arriva la primavera. Sei pronta? Sì. Io ad affrontare tutte le allergie? Quella sarà un tema caldo, eh? Allergie, inquinamento, ecco, miscela esplosiva. Anche la circolazione, i primi caldi, no, le di argomenti che si ce ne sono. Esatto. Suggeriteceli anche voi e ricordatevi la nostra iniziativa con gli specialisti di Humanitas, certo. Perché marzo è sì il mese dell'allergia, ma anche il mese della pancia. No, scusa, stavo facendo dei segnali di fumo a Carmelo perché sento un po' di rimbombo per le orecchie, dici che la primavera pure questo. Eppure abbiamo fatto la puntata venerdì. Lo so, evidentemente professor Burdo, c'era Burdo, no? Mi ricordo male o sì, devo fare così? Esatto. E non ho sentito bene tutti i suggerimenti. Detto questo, invece per quello che mi riguarda il tema di denari, lo anticipo, che in realtà è anche un po' cuore, oggi ti ho rubato qualche idea, però mi piaceva molto questa indagine del Movimento Difesa del Cittadino che analizza un po' quelle che sono le nostre preoccupazioni attuali per la nostra vecchiaia. Faremo il focus su quelle di taglio economico, certo. Se non abbiamo oggi la certezza che la nostra non autosufficienza possa essere gestita perché il nostro tenore di vita economico sarà basso, abbiamo così un po' deciso di fare l'ABC delle cosiddette polizze long term care, quelle che dovrebbero sostenerci appunto nei momenti di difficoltà, pagare magari la struttura sanitaria residenziale, la residenza sanitaria dove andare a stare, oppure la badante, ma non sono molto diffuse in Italia perché si dice che costino un po' troppo e quindi allora bacchetteremo l'industria di sono settore. Sono un po' salate, invece sì. Io nella prima parte, vedi, mi aggancio in qualche modo subito. Perché noi parliamo di zucchero. Quanto è dolce la vostra dieta? 800 24 00 24, anche alternative per non rinunciare completamente allo zucchero che è sotto l'osservatorio dei medici che ci dicono che dobbiamo, come abbiamo fatto con il sale, ridurlo drasticamente dalla nostra dieta, ma noi andiamo subito alla nostra rassegna stampa. La rassegna stampa di salute parte con l'allarme lanciato da due nuovi report dell'OMS. Più di una morte su quattro fra bambini sotto i 5 anni è attribuibile a un ambiente insalubre. Smog, inquinamento indoor, fumo passivo, acqua non potabile, carenza di servizi igienico-sanitari e igiene rubano la vita, pensate, a 1.700.000 bambini. I dati permettono di stilare un elenco delle cause di morte fra gli under 5 legate alla ambiente. Bene, al primo posto ci sono le infezioni respiratorie e in linea con noi commentiamo questi dati con il dottor Sergio Arari, che è direttore dell'unità operativa di pneumologia e direttore del dipartimento di scienze mediche all'ospedale classificato San Giuseppe Multimedica di Milano. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Dottor Arari, i piccoli sembrano essere molto più esposti e sensibili ai danni dell'inquinamento. I danni possono iniziare sin nella pancia della mamma. Sono personcine fragili. Assolutamente. Noi oggi abbiamo una serie di dati scientifici solidi sul fatto che l'inquinamento atmosferico può interagire nel momento della gravidanza, nei mesi della gravidanza, determinando sia un basso peso alla nascita, sia manifestazione di ipertensione della mamma, quella che noi chiamiamo gestosi, sfavorevolmente. Dall'altra parte, poi questi danni possono poi proseguire nell'epoca neonatale e infantile, in più apparati, con un sviluppo di tipo un ritardo nello sviluppo cognitivo, nell'apprendimento e ovviamente danni respiratori, come avete detto. I danni respiratori sono quelli più importanti, c'è una suscettibilità maggiore alle infezioni respiratorie, un aumento di casi di asma, di bronchiolite, un ritardo nella crescita e nello sviluppo dei polmoni. Dobbiamo ricordare che i bambini sono più esposti per varie ragioni. Una è che hanno un momento di sviluppo particolare per cui gli organi sono più suscettibili all'azione dannosa dell'inquinamento. Secondo è che la ventilazione, cioè la quantità di aria che loro scambiano con l'esterno rispetto alla loro superficie corporea è molto più alta rispetto all'adulto, quindi filtrano una quantità di aria inquinata molto maggiore rispetto all'adulto. Il terzo fatto, essendo più bassi, sono più certo vicini alle fonti di inquinamento. Dottor Arari, l'OMS chiama un impegno globale per rendere tutti i luoghi più sicuri per i bambini, quindi ridurre l'inquinamento dell'aria, lavorare sull'acqua potabile, naturalmente anche sull'igiene, anche in strutture sanitarie in cui le donne partoriscono, proteggere le donne incinte da fumo e dal fumo passivo. Ma dottor Arari, ciascuno di noi deve fare la sua parte. Lei ha sottolineato che i motivi per cui i bambini sono più vulnerabili agli effetti dell'inquinamento, una raccomandazione per i genitori all'ascolto, ma non solo per i genitori, per tutte le persone che devono dare un esempio, un contributo. Io credo che ci siano due tipi di raccomandazioni: una pratica, cioè quella su cui possiamo agire di più, è l'inquinamento indoor, cioè nelle nostre case, non fumare in casa, non accendere i camini in casa, cercare di avere attenzione a quello che mettiamo dentro le nostre abitazioni, sia come mobili, sia come prodotti per l'igiene e così via. Quindi ci sono una serie di accorgimenti che possono essere presi per migliorare l'aria dentro le nostre case. Un'attenzione particolare dovrebbe essere presa anche nelle scuole, e poi c'è un'attenzione che dovremmo avere tutti su quelli che sono dei comportamenti, sull'uso dell'automobile, sul riscaldamento del nostro immobile e così via, che è una sensibilità sociale che dobbiamo sviluppare assolutamente. Poi ci sono delle azioni politiche su cui anche qui bisognerebbe che la società civile spingesse a che ci fosse veramente una politica ambientale in questo paese, che manca da sempre forse. Dottor Arari, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, ci sentiamo presto, grazie. Grazie a voi. E noi continuiamo con la nostra rassegna stampa e Deborah, io ti porto in cucina. È in linea con noi. Sai che ci non vengo sempre volentieri. Non c'è un cuoco, ma il dottor Antonio Cerasa, ricercatore del CNR dell'Università di Catanzaro, che ha svolto una ricerca molto curiosa, la prima al mondo. Non è andato ad analizzare il singolo chef, ma i capi chef, quelli che hanno sotto di sé una brigata. Staff. Buongiorno, dottor Cerasa. Cerana, buongiorno. Dottore, allora, la vostra è una ricerca molto particolare che è andata proprio ad indagare che cosa succede nel cervello di chi ha alle sue dipendenze un gruppo di persone che deve naturalmente coordinare. Sì, sì. Si chiamano, in termini tecnici, sono head chef, cioè il capo cucina. Head chef, sì. La definizione che diede oltre 100 anni fa Escoffier, che fu il padre degli chef, definendo lo chef colui il quale comanda una brigata, come fa il direttore d'orchestra con la sua orchestra, e soprattutto colui il quale scrive le ricette del suo ristorante. Quindi la base di partenza per tutti le varie poi sottodivisioni. Che, quindi siete andati a prendere il Riccardo Muti delle varie cucine. Sì, diciamo di sì. Direttore d'orchestra, direttore di cucina. D'orchestra. Che cosa avete scoperto, dottore? Che appunto... avendo allenato per molti anni questa qualità, che è quella sia di cucinare ma sia di dirigere e sincronizzare i piatti cucinati da altri cuochi, questa abilità si traduce in una singola funzione, che è quella di programmare gli atti propri e quelli degli altri. Si chiama programmazione motoria, programmazione cognitiva, e il tutto si rispecchia poi con un'area del cervello che si chiama cervelletto, che cresce di più perché è abituata ad apprendere nuovi schemi motori sempre più complessi. Immaginiamo la scena della classica dello chef che deve tagliare velocissimamente le verdure senza tagliarsi le dita, ma mentre sta chiamando altri a fare altri compiti. Quindi in quel momento il suo cervello sta facendo mille operazioni. Ecco quello che viene, dottore, detto multitasking. Assolutamente. È una cosa simile. Dalla vostra ricerca quindi emerge che questi head chef, questi capo chef, sviluppano un super cervelletto, perché lo allenano in modo particolare. Quindi questo ci può dare magari qualche spunto per capire che cosa succede, quali sono le caratteristiche che deve avere un capo, una persona che comunque deve coordinare un gruppo di persone? Sì, in letteratura però non ci sono altri studi come il nostro. In letteratura chi ha un super cervelletto sono alcuni tipi di musicisti, sono gli scalatori, chi deve salire sull'Everest ha moltissime qualità psicomotorie e che ha allenato nel tempo, ma anche i giocatori di basket hanno un cervelletto più sviluppato, cioè tutti coloro i quali hanno allenato questa capacità di controllare tanti movimenti insieme. Cosa accade però nel momento in cui devo coordinare anche gli altri? In realtà non lo sappiamo, perché noi dovremmo studiare i metri di sala, dovremmo studiare i militari che guidano una truppa, un capitano di volo e così via. Queste particolari professioni ancora non sono state studiate però. Dottore, però da questa ricerca lei può darci qualche suggerimento, quindi magari per allenare il cervelletto basterebbe creare una brigata familiare in cucina, in cucina appassionatamente con i nostri figli, i nostri amici, i nostri compagni. Diventiamo head chef. In casa nostra. In casa nostra. Dottore, lei come se la cava con la cucina? Io amo cucinare, ecco perché è cominciato tutto questo, perché io volevo stare vicino agli chef, quindi per puro caso un giorno sono entrato in una cucina di un grande chef e ho visto veramente qual era la loro vita, e quindi è da lì che è nata l'idea. Perciò io amo cucinare, amo tutto quello che c'è intorno al mondo della cucina. Ecco, spero che con questa ricerca ho avvicinato anche altre persone. Sicuramente. E noi in fondo parleremo anche un po' di cucina, perché nella seconda parte del programma daremo anche dei suggerimenti ai nostri ascoltatori su ricette prive di zucchero, con poco zucchero, ma ugualmente dolci. Dottore, grazie per essere stato con noi e complimenti. Infatti. Grazie a voi. Buona giornata. Tu Bene. Ti faresti studiare dal dottore? Ci facciamo studiare anche noi? Ma io lo farei anche volentieri. Non so, speriamo che lo trovino però, il mio. Sì, nascosto sotto i capelli dentro la nostra calotta cranica. Andiamo. No, siamo due soggetti interessanti, secondo non te. Non lo so, però un po' cuciniamo. Ma sì, no, tu cucini. Tu sì che sei una vera head chef, altro no. Che... Dai, andiamo a sentire il traffico. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it vi presenta... Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati, partiamo con la rassegna stampa di denari, che naturalmente parte con un'occhiata all'andamento dei mercati finanziari. In questo avvio di settimana abbiamo un quadro negativo: meno 0,44% Parigi, Francoforte perde mezzo punto, Londra meno 0,26%, Milano meno 0,49%. Molte notizie di operazioni straordinarie che stamattina stanno movimentando la seduta. Intanto abbiamo l'ufficializzazione dell'acquisto da parte di Peugeot della Opel da General Motors, un'operazione che vale 1,3 miliardi di euro e che stamattina appunto fa bene al titolo Peugeot. A Parigi il titolo cresce di 2,5 punti. Poi abbiamo invece un'altra notizia negativa: super aumento di capitale per Deutsche Bank, il titolo a Francoforte in ribasso di 6 punti percentuali. Nasce un altro grande colosso del risparmio gestito a livello europeo, Aberdeen, un gruppo appunto scozzese, va a nozze con un'altra grande società che adesso vi ricordo appunto come si chiama, Standard Life, e il titolo Aberdeen a Londra sta crescendo di 4,5 punti. Quindi molte notizie di operazioni straordinarie, come vi dicevo, che stanno rimettendo un po' di pepe tra il comportamento degli operatori, anche se mediamente gli indici sono in ribasso. E questo nonostante Wall Street abbia chiuso leggermente positiva venerdì scorso con il Dow Jones sopra i 21,000. È una settimana importante peraltro per il mercato americano, perché arriva il solito test di inizio mese, che è quello sulla disoccupazione del mese precedente. Quindi venerdì prossimo avremo il dato di febbraio, sarà un test molto importante sempre per verificare le intenzioni della Banca Centrale Americana di andare ad un aumento dei tassi di interesse nel meeting di metà mese. Poste Italiane, miglior titolo della seduta, a Piazza Affari più 4,28% per il gruppo, per il quale appunto è attesa un'altra tranche di privatizzazione, di collocamento sul mercato da parte dello Stato. Il 30% del gruppo addirittura lo Stato vorrebbe mettere, il governo vorrebbe mettere sul mercato, ma a quanto pare si rinvia un po' l'operazione e forse potrebbe esserci in programma una vendita diretta alla Cassa Depositi e Prestiti, e questo stamattina sta risollevando appunto il titolo. Fra gli altri rialzi, Italgas rialzo di un punto, Fiat Chrysler più 0,6%. Tra i cali invece segnaliamo meno 1,8% per Popolare dell'Emilia Romagna e Mediobanca, ribasso di 1,5% per Prismian, meno 1,36% per il Banco BPM, per Saipem meno 1 per Buzzi Unici, MCNH Industrial e Tenaris. Nel fare la nostra rassegna stampa di denari ci sono saltati all'occhio dei dati che abbiamo deciso di approfondire in questo inizio di settimana. Riguardano un tema importante per il nostro paese che ci piace, ma al contempo affrontiamo spesso con difficoltà. Parliamo appunto del processo demografico. L'Italia è un paese molto anziano, questa condizione è nota, no, Nicoletta? Perché ne parliamo noi spessissimo in termini di salute, conservazione chiaramente di uno stile di vita adeguato, ma soprattutto è una condizione nota nel nostro paese perché ne paga le conseguenze il sistema pensionistico. E, è un sistema che sta diventando una coperta sempre più stretta per accontentare tutti, visto che deve coprire e scaldare tante persone. Come si pongono gli italiani davanti all'invecchiamento? Il tema è frequentemente al centro di molte ricerche. Quella che vi proponiamo oggi si chiama Smart Health Long Life, è stata realizzata dal Movimento Difesa del Cittadino insieme al forum Ania Consumatori. Cosa emerge? Che i nostri concittadini sono abbastanza preoccupati del pericolo di avere un reddito inadeguato in vecchiaia e temono che il settore pubblico non riuscirà a rispondere ai bisogni di cura. Ne parliamo col presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Francesco Luongo. Avvocato, ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno. La prima curiosità che mi viene da porle è questa: ma come mai le associazioni dei consumatori tanto impegnate nella tutela dei consumatori su vari versanti, in genere voi siete molto orientati, come dire, a dare assistenza nei momenti in cui devono gestire conflittualità legali con le aziende e quant'altro, oggi invece vi state cimentando sempre di più anche nell'elaborazione di queste ricerche a 360 gradi, un po' che riguardano l'ambito sociale anche, no, della vita dei consumatori, dei vostri associati? Perché vi siete orientati anche in questo campo, in questa circostanza? Beh, devo dire che il Movimento Difesa del Cittadino sin dal 1987, in quanto associazione che vuole tutelare i cittadini anche quando sono consumatori, da tempo si occupa di informare i cittadini su quelle che sono le problematiche fondamentali. Noi non interveniamo soltanto nel momento del contenzioso. Il vero compito delle associazioni dei consumatori è quello di consapevolizzare i cittadini su quelli che sono i propri diritti e conoscenza di strumenti per migliorare la propria qualità della vita, anche attraverso un consumo più consapevole. E in questo senso abbiamo ritenuto opportuno aprire un focus su una tematica che incide poi fortemente sui bilanci delle famiglie, se teniamo conto che il 18,5% degli ultra 65 anni in Italia vive una condizione di non autosufficienza, quindi della impossibilità a svolgere attività semplici, vestirsi, lavarsi, nutrirsi, fare la spesa. E questi sono costi che si scaricano in parte sul Servizio Sanitario Nazionale in termini di assistenza ospedaliera e sanitaria, ma l'assistenza infermieristica oppure quella residenziale è molto spesso, troppo spesso, a carico delle famiglie, con una spesa media enorme. Se pensiamo che la persona non autosufficiente comporta per le famiglie una spesa di circa 3.000 euro al mese. Quando va bene, esatto. E quindi, tra l'altro, lo segnalo già, allora, avvocato, proprio partendo dalla vostra ricerca, noi abbiamo pensato di fare un ABC degli strumenti di protezione per la vecchiaia. Molti di noi conoscono le polizze sanitarie che coprono le spese mediche, ma molte meno persone conoscono le coperture che possono aiutarci a pagare le spese domiciliari, la casa di riposo in caso di non autosufficienza, il mondo delle polizze long term care, non troppo diffuse come offerta in Italia, ma di cui comunque è necessario conoscere il funzionamento, come dicevo, l'ABC, vizi e virtù, pregi e difetti di questi strumenti che appunto fanno una copertura molto importante, ma sono altrettanto molto onerose. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Quali altre evidenze interessanti sono emerse dalla vostra indagine, avvocato? Leggevo che il 41% degli interpellati teme di non avere le risorse economiche per affrontare un'eventuale disabilità in vecchiaia. Assolutamente sì, la crisi del welfare in Italia è ormai evidente. Il campione interpellato conferma questa ansia per il futuro, che si traduce anche in una fondamentale crisi di fiducia e quindi anche poi della domanda. Siamo in un loop particolare che autoalimenta la crisi. Voglio sottolineare però un aspetto positivo che emerge, ovvero sia soprattutto i più giovani, il 33% degli intervistati ritiene di dover stipulare una di queste polizze perché in prospettiva è quasi certo di non poter usufruire di una assistenza adeguata. Campione che invece dimostra come per i più anziani questa consapevolezza non c'è, così come non esiste una consapevolezza dell'esistenza stessa di questi prodotti assicurativi che possono essere utili e saranno per molti, potrebbero essere per molti, l'unica risorsa, tenendo conto che nel 2050 le persone non autosufficienti saranno, secondo l'Istat, almeno 5 milioni. Tra l'altro molto spesso queste polizze sono collettive, addirittura chi le sottoscrive neanche lo sa che con la propria azienda ha stipulato una copertura di questo tipo, per cui va fatta un po' di campagna di informazione anche in questo senso. Un'ultima cosa, avvocato, poi la lascio, so che avete realizzato anche una mappatura dei servizi di telemedicina attivi in Italia, c'è una guida che si chiama Smart Health, a che cosa serve in 30 secondi? Ridurre i costi per l'assistenza sanitaria significa sfruttare le tecnologie informatiche. Molte ASL, molte regioni hanno questi servizi. Abbiamo predisposto questa prima guida in materia di telemedicina. Cambiare medico di famiglia è possibile in Piemonte, Lombardia, altre regioni. Pagare i ticket online, fare ritiro referti online, prenotazioni di visite specialistiche. È possibile farlo senza attese, con costi ridotti. Per la prima volta questa guida ci elenca grazie. I servizi. Grazie avvocato Luongo, grazie è tutto, adesso andiamo al giornale radio, poi torniamo subito dopo con queste coperture assicurative, tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Cuore e denari. Oh, oh sì, è vero, non dobbiamo divertirci troppo, dobbiamo ricordarci che siamo vecchi, vecchi, vecchi, vecchi, vecchi. Beh, voi fate come vi pare, io voglio divertirmi. Allora, sì, dove andiamo? Beh, a casa. A casa, su, avanti, no, no, non farlo. Giù, forza, si va tutti a casa, su, fammi andare. Su, vieni, tesoro. Avanti, avanti, su, a casa. Tutti a casa, è tardi, a casa. Ma che va preso tutto a un tratto? Io vengo con te, Gio. No, tu va a casa, Alba, io vado a bere un cocetor. E insomma, un brano di un film tanto apprezzato anche dagli telespettatori italiani, Cocoon del 1985, si raccontava della miracolosa longevità appunto di questa popolazione anziana americana per tutta una serie di motivazioni appunto, ma il tema è quello che affrontiamo questa mattina, mantenerci naturalmente in salute quanto più a lungo, perché la vita media in Italia si allunga sempre di più, ma il tema è anche capire se percepiamo i rischi legati alla vecchiaia e soprattutto se li conosciamo, quelli di natura economica, e se conosciamo le coperture assicurative esistenti abbiamo che ci possono appunto garantire anche un adeguato tenore di vita soprattutto in una condizione di non autosufficienza. Allora, un tema molto complicato, molto delicato, che si presta anche a tante considerazioni di varia natura. Noi siamo partiti da questa ricerca rilasciata proprio pochi giorni fa dal Movimento Difesa del Cittadino, da cui emerge la preoccupazione verso un welfare sempre meno in grado di rispondere ai bisogni di cure individuali. Un tema particolarmente sentito è l'inadeguatezza del reddito. Il 40% degli intervistati, sintetizzavamo la ricerca prima con il presidente Francesco Luongo, ritiene che la vecchiaia, che invecchiaia, percepirà un ammontare di reddito adeguato, mentre l'altra metà del campione non ha questa sicurezza e pensa che in futuro riceverà un livello di cura e assistenza minore. Sicuramente lo Stato riesce a fare sempre meno, dobbiamo intervenire in via privata, ma gli strumenti assicurativi di protezione sono tanti, sono però anche abbastanza onerosi. Noi oggi vorremmo fare un ABC sul tema delle cosiddette polizze long term care, quelle che appunto pagandole oggi in futuro dovrebbero consentirci appunto di stare magari in una residenza sanitaria senza troppo carico sulla famiglia, o magari pagarci anche un'assistenza con una badante appunto chiaramente aiutando anche la famiglia che evidentemente interviene. 800 24 00 24 intanto è il numero verde che vi consente di intervenire in diretta se volete dirci qualche cosa a questo proposito, soprattutto se state già pagando un premio, sottoscrivendo appunto uno strumento assicurativo di questo tipo, quali sono gli aspetti che non vi sono chiari o se vi fidate, non fidate, perché poi c'è anche tutto questo aspetto legato al mondo delle assicurazioni. Segnalo anche che stiamo facendo su Twitter un sondaggio chiedendovi cosa vi preoccupa di più degli aspetti economici dell'età che avanza. Il 34% delle persone che hanno già risposto ci appunto dicono la pensione bassa, il 3% pesare sulla famiglia e il 63% la non autosufficienza. Buongiorno e benvenuta Fiammetta Fabris, direttore generale di Unisalute. Benvenuta, grazie. Buongiorno. Grazie Deborah, buongiorno Nicoletta. Eccoci Salve. Qua. Allora, Unisalute è la prima compagnia in Italia a dedicarsi esclusivamente alla salute, ha una rete di strutture sanitarie convenzionate direttamente. Voi siete proprio, dottoressa Fabris, specializzati in programmi di copertura assicurativa per aziende, istituzioni, enti pubblici, associazioni, e vi avvalete di una rete di strutture sanitarie convenzionate che possono essere pubbliche e private. Per cui diciamo che siete un interlocutore giusto questa mattina per spiegare la condizione di chi non è autosufficiente, fase della vita molto delicata fisicamente, psicologicamente, per sé e per la propria famiglia. Ecco perché ci si dovrebbe teoricamente preparare per tempo, no? Per attenuare tutto quello che viene considerato un po' connotato negativo di questa fase della vita. Però insomma, prepararsi per tempo vuol dire tutto e niente, e soprattutto il sacrificio economico, glielo dico già, è quello che i nostri ascoltatori, Nicoletta, leggevamo prima sì, a microfoni spenti, dell'esperienza di una giovane mamma, perché è una cinquantenne che single, però dice, guadagno 1400 euro al mese, ho un mutuo di circa 400 euro per la casa, mia figlia è diciottenne e le spese aumentano, ma come si fa con uno stipendio così, e mi ritengo fortunata, ci scrive la nostra amica, a pagare la pensione integrativa e anche l'assicurazione per la vecchiaia? Poi lavora in un'azienda, ci dà altri dettagli. Dottoressa Fabris, immagino, infatti, questa. Obiezioni che sentite spesso. Le chiedo già di raccontarci subito allora la vostra esperienza in questo senso. Che certo. Tipo di tenore c'è nelle considerazioni della vostra clientela o di quella che vorreste fosse la vostra clientela? Poi parleremo di tutta la differenza che c'è nell'universo mondo delle polizze di questo tipo, le individuali, le collettive, il tipo di prestazioni che erogano e quant'altro. Però il tema è: con il quadro economico che c'è adesso, come faccio a pensare a quello che sarà la mia non autosufficienza, se ci sarà, perché magari potremmo anche essere fortunati e vivere benissimo fino alla fine dei nostri giorni. Però, certo, dottoressa Fabris, sì. È assolutamente corretto. Quindi, per inquadrare un po' il problema che, di cui lei sta parlando molto correttamente, noi avremo comunque davanti una popolazione che invecchia e che avrà necessità sempre di più di avere determinati sostegni. Quindi si parla di 20 milioni di persone che in un qualche modo entreranno nella post 65 anni nel 2050 ad avere bisogno di una grossa fetta di sostegno, 6 milioni probabilmente saranno anche non autosufficienti, però questa è ovviamente evoluzione demografica e quindi problemi di carattere socioassistenziale. Il problema di fondo è che su questo quadro si scaricano ovviamente delle impossibilità da parte della nostra struttura oggi pubblica di principi universalistici a cui siamo abituati di sostenere questi tipi di problematiche, e la modificata anche struttura familiare che non dà più sostegno complessivo, e quindi le donne che hanno necessità appunto di portare a casa un altro stipendio e non possono rimanere a casa a fare da ammortizzatore sociale, esatto. Perfetto, e creano ovviamente un quadro con cui dobbiamo necessariamente fare i conti. È anche corretto quello che si stava dicendo prima, la vostra ascoltatrice, che dice che ovviamente con uno stipendio di 1500 euro mese non è così facile pensare in maniera organizzata al futuro. Tant'è che oggi il 9,5% della popolazione italiana sta anche riducendo le spese per le proprie cure, e quindi questo dal punto di vista complessivo vorrà dire anche avere meno prevenzione, ed è il primo anno, il 2016, quello in cui abbiamo avuto una stasi dell'aumento dell'età media, e quindi sicuramente ce ne accorgeremo ancora di più quando dovremo affrontare le cure, che già oggi pesano sul bilancio familiare complessivo degli italiani per 34 miliardi come spesa out of pocket. Quindi, nonostante ci sia in Italia un servizio sanitario nazionale in grado almeno in via teorica di presentare una gamma di sostegno e di vicinanza rispetto alle prestazioni di carattere sanitarie molto più strutturato. Se a questo aggiungiamo la spesa per la non autosufficienza, che già oggi, dagli ultimi conti per il pubblico, tra trasferimenti di carattere monetario e servizi socioassistenziali, che per diversa natura oggi vedono più enti nell'ambito, quindi nel panorama pubblico, intervenire su quest'area e che quindi portano una spesa corrente di altri 20 miliardi dal punto di vista del pubblico, se aggiungiamo gli altri 10 miliardi della spesa out of pocket degli italiani sulla parte di non autosufficienza, si comprende già come già oggi una parte sostanziale di questi costi rimane a carico comunque delle famiglie ed è una spesa corrente. La sfida sarebbe quella di cercare di tradurre questi miliardi di spesa corrente in investimento e quindi trasformare questo per gli italiani in una programmazione che effettivamente potrebbe riuscire anche a tutelare questa possibilità di spesa futura. E magari, appunto, se anche io non ho dovuto ricorrere praticamente a protezioni per la non autosufficienza, però sostanzialmente avrò avuto la possibilità di concorrere in uno strumento collettivo, magari, perché in questo caso qualcosa si potrebbe fare da quel punto di vista, per riuscire a raggiungere più soggetti ed organizzare in maniera più opportuna determinate soluzioni. Siamo sempre appunto nell'ordine del condizionale, dottoressa Fabri. Andiamo invece adesso allo stato di fatto, a quello che abbiamo, le opportunità, le opzioni e l'integrazione privata. Se lo Stato non è in grado di offrire una copertura integrale per tutti, c'è la soluzione appunto privata, come dicevamo, ma anche qui fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Intanto andiamo all'ABC. Che tipi di assicurazione sono disponibili oggi sul mercato e perché l'Italia fa così fatica a svilupparsi da questo punto di vista? Corrisponde al vero che se io mi volessi sottoscrivere oggi, che ho 48 anni, appunto, una polizza di questo tipo, in realtà devo fare bene i conti perché non sono esattamente degli strumenti, come dire, poco... A basso costo, ecco, certo. Esatto. Andiamo un po' assolutamente corretto. Nel senso che oggi questi tipi di coperture già nel mercato italiano sono polizze che possono essere gestite o all'interno del cosiddetto ramo vita oppure all'interno delle coperture danni, però sono caratterizzate comunque con una ipotesi di valutazione nel caso delle coperture di carattere individuali e con costi che possono raggiungere anche 1.500, 2.000, 3.000 euro annui. Per cui sostanzialmente sono una spesa che per essere affrontata ha bisogno quindi comunque di una valutazione adeguata delle proprie rendite, quindi delle proprie capacità di organizzazione, quindi finanziaria. E poi naturalmente dipende anche dal tipo di prestazione finale che si immagina di ottenere, chiaramente il costo che si paga oggi. Assolutamente, ecco. E l'ipotesi ovviamente è sempre correlata sia allo stato di salute della persona attualmente in rischio in copertura, sia ovviamente alla promessa di rendita che si farà nel momento in cui la persona entra in uno stato di non autosufficienza. Certo. Ma mediamente diciamo la prestazione che si ricerca, io mi scusi se la interrompo ma voglio andare proprio al concreto per i nostri ascoltatori, quella che si cerca, cioè per coloro che oggi sono sensibili all'argomento e sottoscrivono polizze di questo tipo avendo anche la capacità finanziaria appunto di poterlo fare perché i premi li abbiamo sentiti quali sono. Che cosa cercano appunto? Immagino di avere questa prestazione poi mensile per pagarsi la residenza sanitaria o la badante, oppure è solamente considerato un'altra forma di risparmio ad integrazione della previdenza pubblica? No, dal punto di vista del modello è proprio quella di, come le dicevo, sono poi molto diversi tra il vita e il danni, nel senso che nelle coperture malattia parliamo di un puro rischio e quindi sostanzialmente fino a che io continuo a versare ad avere quel tipo di copertura ho la possibilità di attivare poi il percorso anche successivo nel caso quindi io entri in uno stato di non autosufficienza e di avere quindi la promessa promessa economica che ho pattuito. Nell'ipotesi del vita, essendo polizza invece ad accantonamento, è ovviamente ancora più complesso. Devo sottoscrivere quando ho una età abbastanza, quindi non avanzata, per poter arrivare ad ottenere una copertura, quindi una rendita che mi consenta, nel caso in cui io abbia uno stato di non autosufficienza, di poter affrontare determinati costi che comunque possono essere mediamente tra i 500-600 euro mese oppure fino a un massimo di 1.200 o 1.800. Queste sono le cifre che ordinariamente, certo, a livello di mercato ci sono. Io mi rendo conto che banalizzo molto la questione, ma per avere per esempio una entrata fissa mensile che la compagnia di assicurazione mi riconosce di 1.800 euro, andiamo a questo tetto massimo che lei ci ha indicato, nel momento in cui io diventassi non autosufficiente improvvisamente ad un certo punto della mia vita, oggi quanto bisogna versare? Dottoressa, allora, cioè mi rendo conto che banalizzo molto, però è proprio anche per dare così un po' un ordine di idea a chi magari ascoltandoci da oggi si mette a fare una seria riflessione, magari anche un sacrificio economico per pagare oggi pur di avere questa garanzia domani. Certo, dico, nella polizza individuale a livello di una copertura danni e quindi in questo caso dove la promessa del capitale è indipendente dall'accantonamento e quindi in questo caso io ho diritto ad avere quella cifra nel momento stesso in cui io ho continuato a pagare regolarmente, possiamo avere costi per un'età media di 40-45 anni attorno ai 1.500-2.000 euro l'anno. Dipende dallo stato di salute della persona. Ecco, anche perché poi lì quando si sottoscrive il contratto, attenzione alle malattie pregresse, ci sono tutta una serie di regole che naturalmente di cui bisogna essere a conoscenza. Il tema, sì, è che però insomma le polizze long term care hanno, e voi lo dite molto chiaramente anche nei vostri documenti, una logica molto diversa dalla pensione di inabilità INPS. Certo, assolutamente sì, proprio perché oggi la copertura, diciamo, come dicevo prima, lo Stato interviene nei casi di non autosufficienza con tre modelli particolari: il trasferimento monetario, che è quello più utilizzato, la parte relativa ai servizi domiciliari oppure la parte relativa ai servizi residenziali. Oggi il trasferimento monetario, che è appunto quello delle indennità di accompagnamento, tutto quanto ciò che viene erogato da INPS, che scatena l'ipotesi di arrivare fino a 500 euro mese di pensione di invalidità, si ha quando ho raggiunto in linea di massima il 100% del mio stato di non autosufficienza, che però ha una regolamentazione autonoma diversa anche da quelle delle compagnie di assicurazione. Per le compagnie di assicurazione, nei prodotti che oggi sono presenti sul mercato, ci sono i cosiddetti ADL, cioè le proprie, le caratteristiche, le attività, diciamo, di grado di autonomia che la persona svolge normalmente e che vanno da lavarsi, vestirsi, andare in bagno, spostarsi, nutrirsi, eccetera. Quindi possono essere 6 o 4 a seconda dei tipi di prodotto, ed in questo caso è la mancanza di ADL a far sì che ci sia un riconoscimento o meno della l'indennità mensile che è stata promessa. Senta, il premio pagato annualmente quest'anno ha un vantaggio fiscale? Allora, da questo anno addirittura, mentre prima avevamo un vantaggio fiscale fino al massimo di 1.250 euro, che era quindi quello previsto da una precedente legislazione e che equiparava il prodotto vita al prodotto danni in maniera assolutamente totale, adesso invece la nuova legge di stabilità ha stabilito che le polizze acquistate per questo tipo di organizzazione hanno praticamente non hanno tetto, per cui sostanzialmente è stato tolto questo limite di 1.250, per cui è assolutamente già stato, è una previsione molto chiara da parte del pubblico, è un'ammissione del fatto che riuscire dal punto di vista dello Stato a gestire questi tipi di rischi e con l'adeguata gestione che dovrebbero avere è impossibile. E quindi è un invito vero e proprio a cercare di trasferire una parte di questi oneri ovviamente sulle popolazioni, certo, e quindi la possibilità di pensare in maniera un po' più autonoma e diretta a questo tipo di prestazioni. Dottoressa Fabris, io devo salutarla, fra un attimo gli ultimi 40 secondi di tempo. Sì. Le chiedo due indicazioni concrete ai nostri ascoltatori: che cosa è necessario verificare prima della sottoscrizione di una soluzione assicurativa di questo tipo? Poi magari in futuro ci ritorneremo, perché abbiamo parlato di tanti temi in termini generali, ma molti ascoltatori appunto chiedono qualche dettaglio in più, se è possibile per esempio sospendere i pagamenti, quante volte è possibile rinnovare questa polizza, ma proprio due indicazioni di buon senso ai nostri ascoltatori che da oggi fanno una seria riflessione su questo, facendo anche, ribadisco, magari il sacrificio economico, togliendosi qualcosa pur di pagarsi uno strumento di questo tipo. Due cose da sapere e da controllare anche con la compagnia. Allora, le do due indicazioni di massima, una per il mercato dell'individuale e un altro, mi consenta, però per il mondo, sì, del lavoro, perché sì, è la soluzione secondo me più facile per poter arrivare a gestire grandi numeri con bassi costi. Sulla parte delle individuali è riuscire ad avere un prodotto affidabile dal punto di vista del modello, quindi fare attenzione alle prescrizioni dal punto di vista delle esclusioni di copertura, certo, nel momento in cui si sottoscrivono queste polizze, che hanno ovviamente la caratteristica di per sé di essere di lunga durata, quindi l'affidabilità di questi prodotti deve essere assolutamente certa nel tempo, quindi un ottimo provider e possibilmente non acquistare solo polizze che prevedono importi economici, ma che diano anche una serie di supporti a servizio per essere effettivamente il più possibile vicini alla persona attraverso il concetto della presa in carico, certo, che aiuta la famiglia in termini determinanti. Veloce il secondo punto, velocissima. Ecco, il secondo punto è quello delle polizze collettive. Il mondo del lavoro può fare ancora una volta la differenza, come l'ha fatta per la sanità integrativa. Quindi le aziende possono cominciare a sottoscrivere per tutta la popolazione dei propri dipendenti coperture di non autosufficienza LTC e quindi in questo caso il prezzo precipita da quei costi che le dicevo prima anche a 200 euro. C'è tutto il tema del welfare aziendale che si sta sviluppando, speriamo che sia sempre di più verso questa direzione. Grazie a Fiammetta Fabris di Unisalute, velocissimamente andiamo alla borsa e poi torniamo con il nostro cuore, i nostri zuccheri e non solo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Sono un poco di zucchero alla pila. E no, cari amici, se si va di questo passo dovremmo ricorrere a qualche altro stratagemma per mandare giù la pillola. Lo zucchero sta vivendo un periodo molto critico, piuttosto buio direi, è finito sul banco degli imputati accusato di tante malefatte. In generale possiamo dire nuoce gravemente alla salute, ma cerchiamo di capire di più e perché insieme al dottor Massimo Gualersi, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, autore di un libro che ci è piaciuto molto, è vero, ah, Deborah? Sì. Una sorta di piccola Bibbia. Il mio preferito, uno dei miei preferiti. Super Salute e la dieta Super Salute. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, intanto, di che zucchero stiamo parlando? Ma di quello diciamo che un aggiungiamo po'... nel caffè, di quello che consumiamo quando sorseggiamo una bevanda zuccherata, di quello che troviamo nascosto nei cibi, che nella siano mela, dolci e, o no, o di quello che troviamo nella frutta? Dottor Gualersi, mettiamo un po' i puntini su lei. Sì, diciamo che un po' tutti gli zuccheri sono dannosi, logicamente esiste una scala di dannosità, diciamo che parliamo di i peggiori sono gli zuccheri semplici e raffinati, che sono proprio quello, è lo zucchero per eccellenza, quello bianco in granelli, ma anche i dolcificanti che utilizziamo, che aggiungiamo ad esempio al caffè e alle bevande, perché questi sono in grado di aumentare molto velocemente la glicemia, si trovano nascosti anche nei prodotti industriali, nelle torte, quindi molto spesso sono mistificati dentro gli ambienti, dentro gli alimenti, e causano appunto, diciamo, improvvisi aumenti della glicemia, e loro, come vedremo poi, uso eccessivo può provocare appunto dei problemi seri alla salute. Invece ci sono quelli che vengono etichettati come carboidrati complessi, che non è vero e proprio zucchero, ma si trovano ad esempio nel pane, la pasta, il riso, riso, pur non essendo appunto dolci veri e propri, contengono zuccheri che diciamo, se non vengono introdotti in eccesso, non causano squilibrio nel nostro organismo, perché il corpo impiega un certo tempo per scinderli e diventare vero zucchero, che però una volta che è scisso viene utilizzato ugualmente dalle cellule per generare energia. In questo caso il nostro sistema biochimico ormonale è rispettato e quindi questi zuccheri complessi sono diciamo molto migliori. Anche esistono degli zuccheri semplici naturali, che sono quelli ad esempio presenti nella frutta, e anche questi, diciamo, essendo poi inglobati all'interno di altri nutrienti come le fibre, come le proteine e via dicendo, anche questi l'organismo impiega più tempo a scinderli e quindi rialzano meno la glicemia e sono più sani. Quindi i peggiori sono sostanzialmente gli zuccheri semplici raffinati, poi ci sono quelli zuccheri semplici naturali e i migliori sono i carboidrati complessi. E quindi pasta, pane, riso, che noi oggi teniamo fuori dalla nostra discussione, perché noi oggi ci vogliamo concentrare sulla voglia di dolce, sulla quantità di zucchero che possiamo permetterci. Non è che il dottor Gualerzi mi è caduto? No, a meno male, no, facendo sono eccolo lì. Allora, intanto 800 24 00 24, perché stanno già fioccando dei suggerimenti dei nostri ascoltatori, ma anche delle richieste, perché al sapore, al gusto dolce non vogliamo rinunciare, dottor Gualerzi, è difficile. Molti dei nostri ascoltatori ci chiedono se posso ad esempio sostituire lo zucchero, quello in granelli, con il miele, è una buona idea? È una buona idea, diciamo che se utilizzato in moderazione, io vorrei spezzare anche una lancia, perché obiettivamente se lo usiamo nelle giuste quantità, anche lo zucchero non è un demonio, ok? Il problema è che oggi ne mangiamo veramente troppo, ne mangiamo circa il triplo. Allora parliamo prima di quantità, quanto ne sarebbe permesso? Perché secondo l'OMS gli zuccheri dovrebbero costituire meno del 10% del contributo energetico quotidiano, tradotto in cucchiaini sono 12 cucchiaini che possiamo permetterci, ma non sono i 12 cucchiaini che noi aggiungiamo nel caffè, nel tè, nella nostra spremuta. 12 cucchiaini sono quelli complessivi, quindi di questi 12 cucchiaini fa parte anche quella quota di zucchero che noi troviamo nella fetta biscottata, nella salsa di pomodoro, corretto? È correttissimo, ma volendo ancora più semplificare, direi che diciamo che siamo liberi di utilizzare 2 o 3 cucchiaini di zucchero liberi nell'arco della giornata, e soprattutto se non facciamo troppo utilizzo delle bevande zuccherate, perché questo è il vero nemico. In realtà noi ci dimentichiamo che quando beviamo ad esempio anche un succo di frutta industriale o le bevande gassate industriali, lì dentro spesso sono contenuti 5, 6, 7 cucchiaini di zucchero. Quindi pensiamo magari di averne messo solamente uno nel caffè, in realtà non abbiamo contato gli altri 7. Passino quelli, gli zuccheri contenuti nei, come abbiamo detto, nei carboidrati complessi, che diciamo entrano in un'altra dinamica. Quindi diciamo che il dosaggio giusto sarebbero questi famosi 10 cucchiaini, però teniamo conto che 5 o 6 ce li perdiamo all'interno delle preparazioni industriali che tutti noi purtroppo oggi siamo quasi obbligati ogni tanto a mangiare. Allora, non è quindi solamente un problema di chili in più che regala lo zucchero, ma proprio di un danno alla salute. Vi ricordo, il dottor Gualerzi l'avrà sicuramente letto, uno studio del Bambino Gesù che metteva in relazione l'eccesso di consumo di fruttosio nel fegato grasso nei bambini. Assolutamente, perché tutto quello zucchero in eccesso poi va a trasformarsi in grasso e quindi attraverso l'azione dell'insulina, e uno dei serbatoi del grasso è, ahimè, il fegato, che quando diventa grasso non è solamente che è esteticamente più brutto, ma funziona meno bene, quindi ci detossifica di meno, ci protegge di meno e quindi cominciamo ad avere anche problemi metabolici. Quindi il paradosso è che nonostante mangiamo non riusciamo più a metabolizzare, e quindi quando il fegato, diciamo, non funziona, il metabolismo scende, questo ci fa venire più voglia di mangiare lo stesso dolci e quindi entriamo in un circolo vizioso dove abbiamo fame ma non consumiamo e quindi peggiora la nostra salute oltre che il nostro peso. Dottor Gualerzi, e qui parlo al cardiologo, alcuni studi alcuni esperti stanno indagando sulla connessione tra consumo di cibi e bevande zuccherate e ipertensione. Insomma, lo zucchero è indagato quasi quanto il sale. È possibile, dottor Gualerzi? È assolutamente possibile, perché a parte che li raggruppiamo nei nostri famosi ormai veleni bianchi, no? Il sale e lo zucchero, siamo portati a mangiare o troppo salato o troppo zuccherato, se ci pensiamo, perché entrambi agiscono sul cervello nello stesso modo, cioè se mangiamo più zuccherato richiamiamo la voglia di dolce, quindi più mangiamo dolce più entriamo in questo circolo vizioso. Ma sulla pressione diciamo che è un'azione molto importante, perché al pari del sale andrebbe ad indurire, parliamo così in parole più semplici, certo, le arterie, e quindi aumentare le resistenze periferiche, e quindi a dare nella stessa dinamica del sale, quindi ad avere un sistema arterioso più rigido significa avere una pressione, soprattutto quella massima, cioè la sistolica, più alta, che tra l'altro è quella più dannosa. Dottor Gualerzi, però ci sono indubbiamente tante persone, e i messaggi lo dimostrano, che non riescono a rinunciare al piacere di mangiare qualche cosa di dolce. Questo è un segnale che cosa riflette? Da che cosa dipende? Dal fatto che mangiano, come lei dice, spesso alimenti dolci, oppure c'è uno squilibrio nella loro dieta? Perché vorrei individuare le cause per dare naturalmente delle indicazioni ai nostri ascoltatori. Allora, diciamo, andandola a semplificare ma complicandola un attimo, diciamo che il cortisolo, che è l'ormone dello stress, abbassa molto i livelli di serotonina, cioè l'ormone del benessere, sì. Ok? Quindi essendo tutti mediamente più stressati abbiamo una riduzione di serotonina, quindi dell'ormone del piacere. E questo ormone viene molto spesso, invece, ne viene stimolata la produzione quando mangiamo zuccheri. Ecco che in un certo senso lo zucchero è un po' un compenso allo stress, proprio a livello ormonale, perché andiamo ad antagonizzare l'effetto del cortisolo sulla serotonina. Quindi in un certo senso ne siamo quasi obbligati, oggi siamo quasi obbligati a mangiare zucchero per antagonizzare gli effetti dello stress. In realtà però lo zucchero ci dà gli stessi effetti dannosi sul nostro organismo rispetto appunto allo stress, e quindi entriamo ancora una volta in un circolo vizioso. Quindi un po' di zuccheri, soprattutto quelli più buoni, ad esempio ne abbiamo parlato tante volte, ad esempio dentro al cacao, comunque quegli zuccheri che vengono liberati dalla scissione del cacao, possono essere utili sia per andare a aumentare la serotonina, sia per ridurre il cortisolo, ma anche non danneggiano troppo, no, il nostro organismo, e quindi alcuni zuccheri sono assolutamente buoni da mangiare, fanno anche bene. Dottor Gualerzi, abbiamo parlato di zucchero, di zuccheri semplici, dello zucchero che troviamo negli alimenti e che aggiungiamo nel nostro caffè, nel tè, beviamo nelle bevande zuccherate. È zucchero semplice, zucchero raffinato bianco, ma non ce la caviamo bene con zuccheri, come chiamo io, di altri colori, e quindi c'è quello integrale, quello grezzo. Sempre zuccheri sono, oppure posso permetterne un pochino di più, mi fanno meno male? Ma io direi che entriamo in finezze che non diamo poi un consiglio giusto pratico, diciamo che li dovremmo trattare nello stesso modo, perché è vero che lo zucchero grezzo, quello di canna, contenendo nel proprio interno degli elementi nutrizionali aggiuntivi come più fibre, vengono assorbiti più lentamente, quindi certo, diventano un po' meno semplici, diciamo. Però non semplici possiamo fare una sono grande sempre. Distinzione, certo, perché altrimenti cadiamo in un errore e diciamo allora di quello ne mangiamo 10 cucchiai, certo, assolutamente no. No. Con l'età aumenta il bisogno di zuccheri, ci scrive via WhatsApp un ascoltatore. Perché? È vero, dottor Gualerzi? Ma è vero, entriamo sempre nell'azione, diciamo, neuroendocrina e biochimica, dove sostanzialmente i livelli di serotonina tendono a diminuire e quindi abbiamo più bisogno di andarla a rinforzare attraverso gli zuccheri. Ma anche perché molto spesso dal punto di vista proprio mentale lo zucchero è una coccola che ci facciamo, e nei momenti in cui siamo più indifesi sostanzialmente lo zucchero è un bene rifugio. Sicuramente quando siamo stressati o siamo soli o abbiamo bisogno di compagnia non andiamo a mangiarci un finocchio e una carota dentro il frigo, ma sicuramente un dito nella Nutella sì, è più facile metterlo, ecco. Allora 800 24 00 24, se volete stare con noi e soprattutto raccontarci quanto è dolce la vostra dieta e che cosa fare per appagare quella voglia di dolci che diciamo viene. Sarà lo stress, sarà l'età, sarà che siamo abituati. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, ritorniamo subito dopo insieme. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Cuore e Denari. E siamo tornati insieme oggi, iniziamo la settimana parlando di zucchero, ma toglietevene subito la voglia, perché ormai gli studi lo confermano e le raccomandazioni dei medici, devo dire, sono abbastanza concordi. Sì. bisogna ridurre il consumo di zucchero, soprattutto quello che noi aggiungiamo, oppure il consumo, lo zucchero che assumiamo quando beviamo bevande zuccherate o gasate. Insomma, bisogna farci un po' attenzione, ma noi non solo vi diciamo che dovete limitare lo zucchero, vi diamo anche delle indicazioni per delle alternative. Abbiamo intanto Anna Maria che ci chiama da Milano per il dottor Gualerzi. Buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamata. Voglio solo sapere, da quando non fumo più, ho 75 anni, io devo mangiare i dolci tutti i giorni dopo pranzo? Proprio deve, perché viene quella voglia che uno dice rinuncio, ma dai, cedo, sono stata così brava a smettere di fumare. Dottor Gualerzi. Ma ci sono delle ricerche recenti che dicono che i recettori cerebrali su cui va a agire la nicotina siano gli stessi di appagamento su cui vanno a agire quelli logicamente dello zucchero e di tutte queste sostanze. Quindi è proprio vero, è proprio una questione proprio di testa, ma di recettori cerebrali. E il discorso che sembra vero solamente per quelli che fumano più di 20 sigarette al giorno e poi smettono, non sembrerebbe essere dimostrato per quelli che fumano di meno. In effetti anche l'aumento ponderale è tipico di chi smette di fumare, ma è un vero fumatore, ma quelli che fumano poche sigarette che non avevano non è giustificato l'aumento di peso. Però che lo zucchero va a agire sugli stessi recettori e quindi dallo stesso senso di appagamento, e quindi esiste una sorta di sostituzione alla nicotina con gli zuccheri. Allora, sostituzioni possibili: miele, sciroppo d'acero, succo d'agave. I nostri ascoltatori si stanno veramente scatenando, e noi abbiamo chiesto aiuto anche a Silvia Strozzi, naturopata ed esperta di cucina naturale. Buongiorno, bentornata. Buongiorno a tutti, grazie Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio. Sì, gli zuccheri sono presenti un po' dappertutto. Sì, il dottor Gualerzi davvero ci sta bacchettando, ma noi abbiamo detto, cerchiamo un po' una scorciatoia, un'alternativa. Sì, gli zuccheri semplici sono sempre in agguato in tutte le etichette, bisogna cercare di leggere bene che cosa contengono gli alimenti. Sicuramente utilizzare gli zuccheri naturali della frutta come sostituzione può essere una buona norma, nel senso che possiamo preparare dei panini con l'uvetta, dei dolci con gli albicocche secche, delle cose che contengano degli zuccheri naturali e che non siano addizionati di altri zuccheri. E soprattutto se compriamo zuccheri come il miele o lo sciroppo d'acero, che sono naturali, ma mi raccomando di guardare la provenienza e la produzione, perché non tutto è sempre quello che è naturale, è sempre buono e fatto bene. Dottor Gualerzi, riassumo alcuni messaggi dei nostri ascoltatori che chiedono di aprire una parentesi, di approfondire sui dolcificanti a cui tante persone ricorrono proprio per non prendere il caffè troppo amaro, ad esempio. Sì, esistono anche qui degli studi molto recenti che dicono due cose sostanzialmente. Da una parte ci sono le calorie, quindi è vero che gli zuccheri dolcificanti hanno meno calorie, però sembrerebbero aumentare lo stesso la glicemia e poi ricadere nello stesso destino amaro dell'aumento dell'insulinemia e quindi dei problemi che abbiamo appena citato. Dall'altro è un problema proprio ancora una volta di recettori cerebrali, perché questo intenso zucchero, sapore di zuccherino che ci viene in bocca quando prendiamo i dolcificanti andrebbe ad innescare di nuovo la voglia di dolce. Quindi da una parte ci sono due effetti, perché anche i dolcificanti fanno male, cioè il fatto che aumentano lo stesso la glicemia, dall'altro il problema che richiamano il bisogno e la necessità di mangiare zuccherato, e quindi in realtà io sarei anche lì molto per la naturalità del prodotto, comunque dolcificare come ci piace, tenendo conto che abbiamo il dubbio, e dico dubbio perché non ci sono studi che hanno dimostrato come ad esempio questi dolcificanti, a parte alcuni casi, portino a problemi più gravi per l'uomo come la cancerogenesi. Questo è stato dimostrato solo sugli animali a dosaggi eccezionali che non sono ripercorribili per l'uomo. Questo dottor tendo Gualerzi, a dirlo, perché ci si può comunque abituare, e soprattutto dobbiamo iniziare ad educare i nostri bambini. Le indicazioni ci sono: fino ai 2 anni è meglio evitare di aggiungere zucchero alla dieta dei nostri bambini, e evidentemente poi crescendoli in questo modo avranno anche un minor bisogno di alimenti zuccherati, è corretto? È correttissimo, così vale anche per il sale. il sale e lo zucchero aggiunto sono cose che noi adulti mettiamo nei bambini per soddisfare il nostro palato, ma per un bambino non avrebbe bisogno di questa, diciamo, eccessiva sapidità del cibo, sia in senso di sale sia in senso di zucchero, e quindi è meglio non metterlo, perché questo si crea un'educazione al gusto diversa che poi non richiederà più nel corso della vita dei sapori così tanto camuffati come quelli che abbiamo quando aggiungiamo questi due veleni. Silvia Strozzi ha raccomandato di osservare, di leggere con attenzione l'etichetta anche di quello che acquistiamo, e si aggiunge Carmen, apicoltrice, vuole raccomandare quando si compra il miele, occhio, guardare la provenienza e soprattutto chi l'ha prodotto. Ma a Silvia Strozzi chiediamo anche un'indicazione, una ricetta che sia dolce ma che non pesi sul nostro consumo di zucchero. Silvia. Allora, se si vuole fare una deliziosa torta naturale senza mettere uova, burro e grassi, si può fare una torta del senza, insomma. Del senza. Si può utilizzare, è facilissima e velocissima, si possono far cuocere un pochino di couscous dentro il succo di mela chiarificato, che non contiene zucchero perché è un'estrazione dalle mele. Dopodiché, quando è appunto cotto, lo si compatta all'interno di una teglia in cui avremo messo delle fettine di pera, di mela, un pochino di albicocche secche o uvette. Poi si compatta il nostro couscous sopra la frutta, si mette in forno e si lascia 25 minuti a cuocere, in modo che il couscous si secchi bene e crei come una base di torta. Dopodiché si gira e la nostra tarte da tenne alle pere o alle mele è pronta. Magnifico. Potete usare qualunque frutta di stagione, e in questo modo usate il couscous in 5 minuti, si cuoce ed è un cereale, si può trovare anche integrale il couscous, quindi non c'è nessun problema. Il dottor anche Gualerzi è contento, perché dobbiamo far contento anche lui, vero? No, veramente la farina integrale deve essere davvero, o comunque la farina a basso indice glicemico deve essere davvero presa in considerazione per preparare veramente tutto, perché stiamo utilizzando tantissimi zuccheri senza saperlo. Quindi attenzione, ancora una volta dobbiamo rileggere le etichette, dottor Gualerzi. Allora, abbiamo Paolo da Bergamo, che però non riesco a sentire per mancanze di tempo. Paolo mi scrive, intanto la ringrazio, la saluto e le mando un libretto, perché non sono riuscita ad inserirla nella discussione. Dottor Gualerzi, chiudendo in dolcezza con una sua raccomandazione? Ma chiudendo in dolcezza, io è un po' il mio cavallo di battaglia quello della trasformazione, quindi non cambiare radicalmente le proprie abitudini, ma cominciare già da domani a fare attenzione alle cose che abbiamo detto oggi, quindi a tutti quegli zuccheri che sono nascosti, soprattutto nelle bevande, nei cibi liquidi, è lì che si nascondono gli zuccheri. Tutti i cibi liquidi, quindi anche i gel, le creme, le bevande, i succhi di frutta, lì c'è la maggior parte dei nostri zuccheri che mangiamo in modo inconsapevole. E poi per il resto è giusto appagare anche un po', certo, la propria voglia, la propria cosa, ma lo zucchero di Silvia, il dolce di Silvia Strozzi è buonissimo, quindi si può mangiare. Dai, tutti a preparare il dolce di Silvia Strozzi con i consigli del dottor Gualerzi. Grazie, noi vi aspettiamo domani. Domani, buona giornata.